rimasto con lei questa sera. Coi suoi graffi sulla schiena, annebbiati da quel rum e pera. Ti prego fammi andare via questa sera senza l'ansia che ti prenda un'altra volta come le altre 100 volte. Però va bene per te, però sto bene con te. Con la rabbia addosso, questi qui non li conosco. Baby, non sono uno stronzo, darò forma a questo sogno. Porteremo forse un giorno, questa sera no, non torno. Baby, cercami in un sogno, nell'oscurità del giorno. Sfoteremo forse un giorno. Baby, cercami in un sogno, nell'oscurità del giorno. Io brucio i ricordi, poi brucio due tocchi. Io baby che sto male, tu che manco te ne accorgi, che manco te ne accorgi. Brucio i ricordi, guardami negli occhi. Io baby che sto male, tu che manco te ne accorgi, che manco te ne accorgi. Tutti qui già mille scazzi, nessuno lì a fianco a rialzarti. Sei solo, son tutti bastardi. Affogo i miei problemi ascoltando quelli degli altri. Famiglia pezzi per il cash, ma ne voglio un po' per me. Non penso più a lei, penso solo a me. Sto coi miei fratelli pensando a sto cash che non mi dice fidati di me. Su dei fammi spazio, sto correndo veloce. Ho preso tante botte, ma è uscito a testa bassa, bro, sei sempre più forte. Ma è uscito a testa bassa, bro, sei sempre più forte. Brucio i ricordi, poi brucio due tocchi. Io baby che sto male, tu che manco te ne accorgi, che manco te ne accorgi. Brucio i ricordi, guardami negli occhi. Io baby che sto male, tu che manco te ne accorgi, che manco te ne accorgi.